you to the world. Cold man. There's some CC. Push it to the world. Cagliari town. CD. Vengo da un blocco di gente in shock, città da smog in piedi. E per quello che so siamo in tanti tra rioni, paesi, quartieri. A destra manca ne passano tipi strani, ricchi tipi di affari, poveri esseri umani. Tra un incendio e via appunto spuntano le Ferrari. Culi di puttane riempiono quei sedili. Passagli la dose se non sclera. La pigna si fa nera se gli togli anche la pera. Cagliari chiusa nova, siti dell'imbraghera. Non ti bevendo mera mera, pompa la palla se suona della mia zona foga. Perché il resto non mi interessa. Bandiera quattro muri impressa nella mia testa. Quanto bello il suo cielo la notte dalla mia finestra. Belle le donne, il mare, il sole preso sotto la spiaggia. Assaggia il bello e il brutto di ogni fottuto quartiere. Le persone che lo meritano sono da rispettare. Sai che ciò che sono è my love. La mia city è tutto quello che amo. Tu busy, chi si ricorda i momenti di crisi per mesi. Quando qui a Cagliari si stava crazy. Giornate easy, troppi pusher presi. E poi periodi di calma, anche la giusta si stanca. Ma qui la fame non manca. Chi spaccia per mangiare, chi ha la faccia di farsi la mancia. Ma dentro Cagliari sparizioni, a semini motorini, marina telefonini. A Santuzza macchine in fiamme illuminando i palazzoni. La piccola Caralis, big baby business morning. Già parcheggi studio di giovani in via l'Europa. Tutti i tipi di roba. Smoca, fumo, coca. Hai la macchina nuova, ti sei preso il Peugeot. Vesti Gucci, D&G e puzzi d'acqua di Joe. Bravo, perché da noi si differenzia il vero gaggio. Occhi specchi, problemi mentali e fisso in viaggio. Rispetto ad ogni mio fratello della City. Perché dentro la zona siamo noi a fare i muri ghiaccia. Sai che ciò che sono è my love. La mia City è tutto quello che ho. Sotto l'ombra che rinfresca sotto i portici. Con il bacchetto dritto con le forbici. Rilassato con cricche di 12. Sballoni cronici. Cronici, monici, mera cosa. Cosa? Hai detto qualcosa? Non è che ti senti a disagio e fuggi con una scusa. Per non entrare a scuola con ogni scusa è buona. Conta gli alunni la mattina dormendo al McDonald's. Con dei cinesi in centro vendendo tanite e lenzuola. Sui cellulari ci son vocalist che chiedono pillona. I bambini ascoltano loud perché fa trash. Di notte fanno tag stronze con Mombole e Clash. Tu sempre fresh and clean in maglie street jeans. Ai piedi Adidas in mano uno split. Si continua così qui a Caralista. Pure c'è che fanno le bici cugisti. Il sound di sui beat di split dizzy. Sulla city per me sale king of meglio. Forse la vita che ho non è quella che voglio. Forse non vivo una vita da sogno. E troppi sono stati momenti di infoglio. Sai che c'è.